Molto velocemente, la situazione meteorologica in atto è sostanzialmente quella che era stata prevista sia ieri che oggi. Al momento quello che è previsto che possa capitare nelle prossime ore è un sollievo per la parte, diciamo, orientale della nostra regione, nel senso che diminuiranno le precipitazioni sulla parte romagnola, e questo è sicuramente un bene, però purtroppo si intensificheranno invece nella parte centrale della, come sta capitando adesso, e quindi la parte del bolognese e del modenese sarà più interessato. I totali di precipitazione sono quelli che sono stati detti prima dall'assessore. È previsto delle precipitazioni, diciamo un'altra piccola ondata di precipitazione nel corso della notte, diciamo nelle prime ore della giornata di domani. I valori saranno decisamente inferiori a quelli di oggi, stiamo parlando di una altra ventina, trentina di millimetri di precipitazione, che però si sommano a una situazione di fragilità del territorio e quindi a un aumento purtroppo dei livelli di atteso. E credo che questo più o meno chiuda tutto. Poi c'è un altro problema piccolo che però riguarda la costa, legato al fatto che ci sarà una mareggiata in corso diciamo nella notte, con onde che hanno già raggiunto diciamo le prime opere, quindi bagni, però nel contesto della situazione regionale devo dire che questo è purtroppo il meno. Allora, le mareggiate dove? Sulla costa esattamente, come zona? Sulla costa, è un po' tutta la costa interessata.